vieni con i chiodini, vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci viene più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat di Firenze e Radio Collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordiamo il sito del Circolo Giordano Bruno di Milano, www.giordanobrunomi.wordpress.com, con motore di ricerca. Calendario anticlericale 2021, info@sicilialibertaria.it. Iniziamo. Vaticano utilizza un'opera di street art per il francobollo di Pasqua. Poi non risponde all'autrice che ora chiede 130.000 euro di risarcimento. La solita truffa dei preti. L'artista italo-sudafricano Alessia Babrou ha citato in giudizio la Santa Sede perché la sua creazione è stata utilizzata a sua insaputa. Le solite truffe dei preti. Destra clericale. Il cardinal Ruini adesso diventa misericordioso per assolvere il corrotto Formigoni. Il danno lo hanno fatto i magistrati a Formigoni, non lui ai contribuenti lombardi, secondo il reazionario Ruini, per il sistema corrotto e corruttivo della sanità, per il quale l'ex governatore Formigoni deve risarcire in solido 50 milioni di euro, a colpire la traballante morale ruiniana, tipica dello zelo farisaico dei clericali di destra, dal Fatto Quotidiano del 26 aprile 2021. Abbiamo poi il giorno del 25 aprile, Formigoni, confermata la stangata, maxi risarcimento da 47 milioni di euro. La Corte d'Appello non fa sconti. Il celeste condannato a 5 anni e 10 mesi, i legali hanno chiesto la prescrizione ma i giudici hanno respinto la tesi. Sul problema della legge antiomofobia, comunicato di Noi Siamo Chiesa. Assurdo accanimento dei vescovi contro la legge antiomofobia. Fino a quando questi interventi sconsiderati? Mentre da un lato nel nostro paese si sta lentamente ampliando l'area d'opinione che accetta come situazione normale nella convivenza civile l'area LGBT, dall'altro discriminazioni e violenze aumentano nei confronti di questi così definiti nostre sorelle e fratelli dal comitato Noi Siamo Chiesa. La cronaca e le statistiche lo testimoniano, è un fenomeno di incultura e di rifiuto delle diversità. Da anni una maggiore tutela da parte delle istituzioni è stato chiesto con costanza da campagne che hanno cercato di coinvolgere tutta la società. Insomma, 5 disegni di legge sono depositati in Parlamento e la CEI si oppone, come al solito, i soliti preti clerico-fascisti. Sud Sudan, agguato nato nella diocesi, 12 arresti, 3 preti arrestati, molto bene. 28 aprile 2021, Corriere della Sera, da amplissimo spazio, vescovo italiano colpito da chi non voleva l'arrivo di nuovi prelati, cosiddetti stranieri. Insomma, c'è una pagina intera. Di notte ero certo che sarei stato ucciso dagli altri preti. Ho pensato soltanto così sia, sono pronto. Altri misfatti dal Corriere della Sera 28 aprile. Così il seminarista abusò di me, sacerdote arrestato dopo 12 anni. Corriere della Sera del 28 aprile. Enna, le violenze quando la vittima era minorenne. Invito a non avere paura. Denunciate i preti pedofili. Aveva raccontato una brutta storia di rapporti, abusi e violenze sessuali subiti da quando aveva 16 anni fino ai 20, insomma i soliti preti pedofili. Alla fine arrestato Giuseppe Rugolo, 39 anni, sacerdote, solito prete pedofilo. La cosa si è risaputa anche a Varese, la prealpina, 28 aprile 2021, violenza sessuale su minori, arrestato sacerdote a Enna, molto bene, molto bene. Allora, sul Fatto Quotidiano, un misfatto della RAI, Radio Apostolica Italiana. La storia, fatale un servizio su Rachele Mussolini. 1956, il partigiano Rendina, licenziato dal TG lottizzato. E qui si denuncia come il potere democristiano clerico-fascista di Tambroni cacciò questo giornalista di sinistra. E però Aldo Moro protestò, almeno quello gli fece ottenere un minimo rimborso. Insomma, i fascisti che controllavano la RAI volevano fare un servizio su Rachele Mussolini, appunto la vedova del Duce. E Rendina si oppose e allora fu subito licenziato. Questa è la Repubblica nata dalla Resistenza. Allora, da Sicilia Libertaria, rubrica di Fra Dubbioso, il leccacattoculismo è più vivo che mai. Ebbene, il 2 marzo 2021 il leccacattoculismo del governo Draghi nelle persone dei ministri Di Maio, Speranza, Bonetti e Bianchi afferma che oltre i 300 milioni di euro stanziati per le scuole private clericali verranno sicuramente aumentate. Il 15 marzo invece la Congregazione per la Dottrina della Fede, erede del famigerato Sant'Uffizio, nega la benedizione alle coppie omosessuali, e qui si parla degli storici carnefici clericali, gli inquisitori. Abbiamo poi TV anticlericali, canale 9, ore 21, 24 aprile 2021, buon servizio su Elisa Flaps. Il suo assassino aveva la chiave del retro della chiesa e della canonica che era attaccata alla chiesa. Complicità per foro nel tetto della chiesa per i miasmi. I preti sapevano tutto, ricostruzione un po' reticente del servizio, però insomma che si parli di questo mostruoso crimine clericale è in televisione è importante. Rai 3, 26 aprile, revisore dei conti Vaticano cacciato, lapsa il malgoverno del Vaticano, investimenti non etici, il Vaticano tramite lapsa possedeva azioni di industrie farmaceutiche che fabbricavano la pillola del giorno dopo. Paradossi vaticani. Si parla anche di microspie tra preti. I preti si spiano fra di loro, i preti si ricattano fra di loro, documenti con data falsa, le falsificazioni del Vaticano, insomma uno schifo. Monsignor Balestrero, 7 milioni di euro che non si sa da dove vengono, patteggia, su questo ritorneremo, traffico di valuta con l'Iran, insomma... niente di nuovo in Vaticano, è sempre il solito covo di affaristi criminali come sempre è stato. Canale 35 Focus, 27 aprile, duro attacco ai missionari che hanno distrutto vari documenti relativi all'isola di Pasqua, perché pare che all'inizio dell'Ottocento ci fosse ancora qualche documento, qualche scritto, qualche immagine sulla storia di questa isola sperduta. Ma i missionari hanno distrutto tutto. Viva il libero pensiero, ora è sempre resistenza anticlericale. Sbattezzati sul sito uar.it. Veniamo al calendario anticlericale 2021. 1 maggio 2014, sparisce nel nulla Guerrina Piscaglia, amante di un frate a Caraffaello di Badia Tedalda, Arezzo. 2 maggio 1945, partigiani arrestano il vescovo di Gorizia, Don Carlo Margotti, filofascista. 3 maggio 2018, dipendente dell'istituto religioso Don Orione di Milano, fa appello al Papa contro il suo licenziamento per malattia. 4 maggio 2019, scandalo pedofilia nella chiesa polacca, centinaia di minori abusati dai pretacci. 5 maggio 1574, l'Inquisizione conclude i circa 60 interrogatori per lo scandalo erotico del vescovo di Castro Viterbo. 6 maggio 2019, Vigevano Pavia, fulmine anticlericale colpisce la cattedrale, chiesa inagibile per caduta di calcinacci. 7 maggio 2015, la già ricca diocesi di Bologna si impossessa della ditta FAC, che fattura 300 milioni di euro ogni anno. 8 maggio 1941, la legazione jugoslava segnala al Vaticano il genocidio di serbi ed ebrei in Croazia. Pio XII tace. 9 maggio 1995, il parroco di Giove Trapani getta la Terni getta la tonaca alle ortiche e fugge con l'amante. Sulle disgrazie clericali, totale fallimento delle scuole private cattoliche, da Il Giorno del 28 aprile, giù dalla finestra durante il compito di latino, gravissimo alunno quindicenne dai salesiani. Insomma, si è buttato dalla finestra, altro che Mago Sales, altro che educazione cristiana, l'ambiente cupo funereo del Vaticano, della Chiesa Cattolica, ha fatto una nuova vittima. Missionaria italiana massacrata in Perù, durante la notte, una rapina. Aveva solo 55 anni, il suo angelo custode evidentemente dormiva. Il prete le dà i soldi, lei vuole di più? Paga o racconto le tue storie. Un ricatto erotico al prete di Pesaro, 24 marzo 2021, da restodelcarlino.it. Ricatto erotico a un prete di Pesaro, spillati 100.000 euro a sacerdote smanioso di sesso. Altre disgrazie, 50 morti in Israele per una calca a un raduno religioso. Disgrazia relativa al Covid, oltre che le centinaia di preti che sono morti, risulta anche morto un seminarista di soli 29 anni nella diocesi di Nocera a Sarno. Sulle disgrazie dei preti parliamo anche di questo certo Don Nannini di Sant'Andrea Cercina a Firenze, che fu ucciso da ignoti, nessuno rivendicò l'assassinio, comunque era un noto fascista, era cappellano della milizia, era fascista indubbiamente, aveva anche amicizie tra i gerarchi. Poi abbiamo gli antipapi, che è il mio argomento preferito, sempre come antipapale, io mi occupo degli antipapi. Parliamo dell'antipapa Dioscoro verso il 500 d.C. Chiunque può leggere la sua triste vicenda su Wikipedia, di citare antipapa Dioscoro. Simonia, vendita delle indulgenze, nepotismo, e rogo di documenti storici, falsificazione di documenti, e morì improvvisamente, sicuramente avvelenato dall'altro papa. Bene, saluti a tutti, viva Giordano Bruno, viva il libero pensiero, sia ad una scuola laica sia all'ora alternativa. Arrivederci alla prossima puntata, saluti a tutti. Vieni, omaggio, t'aspetto.